Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Puntata speciale del cacciatore di libri dedicata a che cosa leggeremo nel 2012. Vecchi nomi che tornano oppure esordienti. Partiamo subito con le proposte di Mondadori. Su che cosa punterà nel 2012 la casa editrice di Segrate? Ce ne parla il direttore editoriale Antonio Franchini. Usciremo con due titoli, a due grossi importanti romanzi a fine di gennaio, uno italiano e uno straniero, che sono, guarda caso, due esordi. Il romanzo di esordio straniero è un americano, l'autore si chiama Ayad Akhtar. Esce in contemporanea con l'edizione americana, l'abbiamo chiamata La donna che mi insegnò il respiro. È un romanzo bellissimo, di grande impatto emotivo, è la storia di una donna che dal Pakistan va a vivere, va a raggiungere una sua cara amica negli Stati Uniti, è una donna musulmana, fugge da un matrimonio andato male in Pakistan e affascina il ragazzo di casa, lo affascina attraverso il Corano. Il romanzo italiano di esordio è il romanzo di una giovane signora, una giovane donna che lavora in banca, è una bancaria, è una direttrice di banca di poco più di 30 anni, si chiama Maria Paola Colombo. Il romanzo ha un titolo molto bello, Il negativo dell'amore, ed è la storia di due vite difficili che alla fine del romanzo si riuniranno per percorsi, per l'appunto, romanzeschi. Una è la vita di una ragazzina che la madre ha cercato di uccidere da piccola, uccidendo se stessa. E l'altro è un ragazzo down. E allora i libri segnalati da Mondadori sono La donna che mi insegnò il respiro dell'americano Ayad Akhtar e Il negativo dell'amore di Maria Paola Colombo. Veniamo ora alle proposte di Rizzoli. La parola a Michele Rossi, editor della Narrativa Italiana. Partiamo molto, molto presto con un libro che io amo particolarmente. E lui si chiama, l'autore si chiama Enrico Pandiani, alle spalle alcuni romanzi, e ha dato vita alla saga di Les Italiens, che sono dei poliziotti francesi di origini italiane fantastici. Usciamo con Pessime scuse per un massacro. Io credo che sia davvero il grande noir d'autore del 2012, nel senso che davvero ci sono pochi paragoni, ma non lo dico perché è un libro Rizzoli, lo direi anche se fosse un libro di qualsiasi altro editore. È davvero un autore di una qualità incredibile che pubblichiamo con un orgoglio senza pari. Dunque, la seconda novità è il secondo romanzo di Francesca Melandri, che aveva esordito per Mondadori con Eva Dorme, un successo, devo dire, ottimo, tradotto in varie nazioni in Europa, in Francia, da Gallimard. Con noi esce con Più alto del mare, un romanzo che parla di uno dei tanti temi, come dire, rimasti nascosti della storia recente italiana. Siamo su un'isola, e su quest'isola c'è un carcere di massima sicurezza. Abbiamo Paolo e Luisa, lui padre di un terrorista arrestato. Siamo a 10 anni dagli anni 70 e sono 10 anni che questo terrorista, questo figlio, è rinchiuso in questa prigione. È un libro che, con un'armonia, con un'intimità, con una delicatezza rare, parla di un non detto che ci portiamo avanti in Italia, ossia chi sono i parenti dei colpevoli. E questo era Michele Rossi, che per Rizzoli ha segnalato Pessime scuse per un massacro di Enrico Pandiani e Più alto del mare di Francesca Melandri. Segnaliamo anche che per Rizzoli a febbraio debutterà in veste di romanziere il cantante Pupo, che ha scritto un giallo ambientato a Sanremo. Dalla Rizzoli alla Longanesi, che per il 2012 ha deciso di puntare soprattutto sugli italiani. Sentiamo il direttore editoriale Giuseppe Strazzeri. Per quanto riguarda, diciamo, un esordio Longanesi, ma non un esordio in senso assoluto, in Longanesi arriva Carlo Martigli. Carlo Martigli è stato un grande successo di qualche anno fa con un romanzo che si intitolava 999 l'ultimo custode, e arriva in Longanesi con la sua nuova fatica. Si intitola L'eretico, è un romanzo storico che oscilla tra la Firenze del Rinascimento e il Tibet in una maniera tanto divertente quanto geniale, e quindi siamo contentissimi di cominciare l'anno così. Seguirà in primavera, all'inizio della primavera, un altro grandissimo ritorno, che è quello di Massimo Gramellini, che dopo il grandissimo successo dell'ultima riga delle favole torna alla narrativa, quindi con il suo secondo romanzo che si intitolerà Fai bei sogni, una storia di infanzia e di crescita molto toccante, molto intensa. E poi vorrei senz'altro segnalare invece l'esordio di una giovanissima esordiente romana, Valentina D'Urbano, che con Il rumore dei tuoi passi ha scritto un romanzo di formazione molto forte, molto intenso, che ci ha ricordato, non so, la Simona Vinci dei Bambini non si sa niente, piuttosto che la Elena Stancanelli di Benzina, o più di recente Un acciaio della Vallone, insomma una scrittura realista, molto cruda ma molto commovente, una bellissima storia. I titoli longanesi per il 2012 sono dunque L'eretico di Carlo Martigli, Fai bei sogni di Massimo Gramellini e Il rumore dei tuoi passi di Valentina D'Urbano. Grandi ritorni nel 2012 per Feltrinelli, a maggio uscirà il nuovo di Henry De Luca, poi Stefano Benni e fra un anno, quindi a Natale del 2012, il nuovo scritto di Daniel Pennac. Ma sentiamo su quali altri titoli punterà Feltrinelli dal direttore editoriale Gianluca Foglia. A inizio gennaio uscirà il libro nuovo di Claudia Pignero, che è un'autrice argentina, di cui abbiamo già pubblicato un romanzo, Tua, che ha avuto molto successo e non è stato molto apprezzato dai lettori. Il 13 gennaio sarà in libreria il suo nuovo romanzo, si intitola Betty Boo, ed è di nuovo un thriller divertente, femminile, che allo stesso tempo un affresco sociale molto molto interessante. E poi punteremo moltissimo a fine gennaio sul libro di un'autrice australiana che si chiama Anna Funder, il titolo del libro è Tutto ciò che sono, ed è una storia bellissima, meravigliosa, un libro di cui ci siamo innamorati tutti in casa editrice, che racconta la storia di un piccolo gruppo di tedeschi, di giovani tedeschi che resistono e decidono di resistere a Hitler durante l'ascesa del nazismo, e delle vicissitudini di questi personaggi, in particolare di un personaggio femminile straordinario che si chiama Dora Fabian. E poi mi piacerebbe segnalare un italiano, che è Giovanni Montanaro, si intitola Tutti i colori del mondo, ed è una storia molto particolare, è una donna che scrive a Van Gogh, e tra amore, follia e pittura e arte e creatività si snoda una storia bellissima, e Tutti i colori del mondo di Giovanni Montanaro sono sicuro che sarà un libro di cui sentiremo parlare nel corso del 2012. I libri segnalati da Feltrinelli sono Betty Boo di Claudia Pignero, Tutto ciò che sono di Anna Funder e Tutti i colori del mondo di Giovanni Montanaro. Infine le proposte Newton & Compton, ce ne parla l'editore Raffaello Avanzini. Sono due libri, uno di un autore italiano e uno di un autore straniero, e il primo è il secondo romanzo di Lorenza Ghinelli, che era già autrice del Divoratore e scriverà per noi La colpa, e invece il secondo è di una scrittrice inglese, Amy Bradley, che scriverà per noi Amore, zucchero e cannella. Che genere di romanzi sono? Il romanzo della colpa è un romanzo che si può che va oltre il genere, si può definire un misto tra la solitudine dei numeri primi, ma anche con delle tinte di thriller, mentre invece Amore, zucchero e cannella è un romanzo molto più leggero, sono le avventure di una single che ritrova la gioia di vivere e l'amore attraverso le ricette e i rimedi della nonna. I titoli Newton del 2012 saranno dunque La colpa di Lorenza Ghinelli e Amore, zucchero e cannella di Amy Brackley. Nel 2012, precisamente il 2 gennaio, ricorre il centenario della nascita di Giulio Einaudi. La casa editrice per tutto l'anno prossimo ricorderà con varie pubblicazioni e incontri questo anniversario. Ed è già tra l'altro in libreria I verbali del mercoledì dal 43 al 52, ossia il resoconto delle riunioni editoriali della Einaudi. Seguiranno altri due volumi. Infine, per i nostalgici del 2011 segnaliamo il libro dell'anno 2011 con le previsioni anche per il 2012 del Sole 24 Ore in vendita in edicola, oppure la versione digitale su www.ilsole24ore.com. Anche per oggi è tutto, un saluto da Alessandra Tedesco.